Oggi abbiamo presentato il cantiere della fase 1 messa in sicurezza della Torre Garisenda. Costruiamo una cintura di protezione alta 5 metri che circonderà la base della torre e l'area di cantiere che i cittadini hanno conosciuto in queste prime settimane. Due ditte specializzate, la Fagioli, che sposta grandi elementi come questi container e ha la cura di tutta la parte logistica, compreso l'hub che realizziamo in via dell'Industria, in uno spazio comunale. Non arriveranno grandi mezzi in centro storico, quindi siamo riusciti a progettare insieme a loro un trasporto di questi container con mezzi ordinari, disagio ridotto. Arriveranno nella prima settimana di dicembre con dei micropali che andranno in profondità anche di 15 metri, fisseranno questi container che serviranno a proteggere tutta l'area di cantiere. Realizzeremo questo tra il mese di dicembre e il mese di febbraio e poi inizieremo con la seconda fase che invece riguarda la messa in sicurezza complessiva della torre. Ecco, questa cintura di protezione quindi di quanto sarà, diciamo? Una cintura di protezione alta 5 metri, circonderà tutta la torre, ci costa 4 milioni e 200 mila euro che finanzia l'amministrazione comunale, insomma urgenza, l'abbiamo fatto proprio per essere pronti ad ogni evenienza, voglio rassicurare però i cittadini e le cittadine che continua ad esserci l'allerta gialla, quindi massima prudenza ma non un rischio di crollo imminente, per cui questo ci permette di mettere in sicurezza l'area e realizzare un cantiere dove le persone possono poi lavorare nei prossimi mesi e realizzare il restauro. Ecco, quindi la seconda fase partirà subito dopo? Sì, andremo in continuità, la seconda fase la iniziamo a progettare proprio in questi giorni, individueremo le competenze necessarie. La seconda fase andrà pensata anche in modo propedeutico al restauro, quindi chiaramente avremo nelle prossime settimane anche chi si occuperà del restauro. Ci vorranno almeno 6 mesi per la seconda fase di messa in sicurezza e poi successivamente al restauro. Ecco, diceva della cifra, siete anche partiti con la campagna di raccolta fondi, come sta andando? Ma intanto voglio ringraziare i cittadini e le imprese che hanno già donato e continueranno a donare, come sempre Bologna dà una grandissima risposta, nei prossimi giorni daremo le cifre, ma Bologna come sempre si dimostra generosa e ha voglia di sostenere le due torri, quindi grande risposta. Oggi uscirà un nuovo video mio insieme a Gianni Morandi e Cesare Cremonini che abbiamo realizzato per ricordare a tutti che sul sito del comune si può continuare a donare, c'è l'art bonus e quindi si può anche detrarre al 65%. Io non ho ancora capito la polemica che le opposizioni vogliono portare avanti, di cosa stiamo parlando. Noi abbiamo dato e daremo in trasparenza tutto quello che è il nostro possesso. Noi siamo impegnati ogni giorno nella messa in sicurezza della torre, nel progetto di restauro. Quello che si doveva sapere è noto, quindi io credo che continuare a rimestare serva solo a rimanere fermi. Se l'opposizione vuole rimanere ferma, fare polemica, ovviamente è un loro tema. Io credo che noi invece ci dobbiamo affrettare a mettere in sicurezza la torre ed è quello che stiamo facendo. Noi siamo focalizzati su questo. Poi se si vuole fare polemiche, fare richieste a cessare gli atti, è giusto che tutti lo facciano, insomma quelli che devono farlo, non è nessun problema.